liberarti. Domattina e vorrei vederti volare sui nevai come prima. Tu così lontana, seppure ormai così vicina, e l'anima se ne va verso l'eternità. E far finta di